Allora, intanto ciao, va bene? Grazie a tutti, al posto, a chi è presente, ai cuochi. Faccio un po' le funzioni dell'ospite, inteso come l'ospitante e l'ospitato, quindi e dirò pochissime parole perché non vi voglio tediare. Presentazione che facciamo adesso riguarda un fondo che viene ospitato all'interno dell'archivio Moroni. Allora immagino che la gran parte di voi primo lo conoscesse o sappia chi è. C'è un bel libretto che è questo qua, che è un'autobiografia di Primo, che è là disponibile al tavolino. Racconta come lui dal 71 abbia gestito un luogo che nelle fattezze di una libreria in realtà è stato un punto di scambio, di convergenza, di confronto di moltissime soggetti collettivi e individuali che hanno attraversato la storia politica di questa città. Primo è stato la Calusca, la sua libreria Calusca è stato un momento di snodo importante. Lui ha subito dichiarato, quando l'ha aperta, che voleva costituire non tanto una libreria quanto una struttura di servizio per il movimento, e così di fatto è stato. Lui ha contribuito a l'editoria della didattiche alternative, ai lavori contro la repressione, ha organizzato dei lavori sul territorio sociale, delle inchieste, fatto parte delle inchieste sociali, ed è stato uno dei luoghi dove si poteva andare a discutere e confrontarsi senza eccessive, come dire, difficoltà e chiusure. Primo muore nel 98, nel 97, ne parlavamo poco fa, partecipa, diciamo, porta la parte italiana al convegno di Zurigo, che ha dato luogo alla pubblicazione editoriale Le parole e la lotta armata, un convegno dove ci sono stati rappresentati e presenti dei testimoni diretti delle pratiche di lotta armata di tutta Europa, e in cui Piero è intervenuto, e daremo dopo un pezzo del suo intervento. È morto nel 98, ha lasciato un grande vuoto e ha lasciato un sacco di libri, perché nel corso della sua vita ha raccolto le cose che gli sembravano interessanti, le ha tenute, avendo una libreria certe cose erano anche più facili, libri e riviste. Un gruppo di lavoro si è costituito poco dopo la sua morte e nel giro di qualche anno ha costituito quello che oggi è l'archivio Primo Moroni, che nasce formalmente nel 2002. L'archivio è ospitato sopra, cioè se attraversate il cortile entrate nella libreria Calusca, l'ultima sede della libreria Calusca dopo che è passata da diversi posti nel Ticinese. Spendo volentieri una parola su questa cosa, perché Primo ad un certo punto, cioè nel 91, decide, in qualche modo viene invitato e accetta volentieri di partecipare, di spostare la sede della libreria all'interno di un centro sociale. C'è una certa lungimiranza nella sua scelta, perché probabilmente lui capisce che questo è uno dei posti che potrebbe durare nel tempo, cosa che in effetti si è rivelata vera, e d'altra parte produce, o come dire, di nuovo riproduce una commistione di generi e di modi di pensare, perché non è tanto che ve lo voglio raccontare adesso, ma potete facilmente immaginare come l'ingresso all'interno di un centro sociale occupato da giovani punk di un portato come quello della Calusca, con tutta la storia dei movimenti di questi anni non è stato sempre facile ed è stato comunque sempre un'occasione di grandissimo scambio tra gli uni e gli altri soggetti. Le discussioni, le assemblee, anche quelle proprio semplici di gestione, hanno digerito questa commistione forte, di cui tutti in qualche modo si sono fatti carico e di cui noi oggi ci avvantaggiamo perché ancora qua siamo e quindi questa cosa la possiamo fare. Nel 2002 si costituisce formalmente questo archivio che inizia il riordino delle carte di Primo e della biblioteca soprattutto, che è abbastanza consistente e che appunto raccoglie tutti i materiali di movimento, i prodotti, autoprodotti e distribuiti in particolare in Italia, ma non solo, nel corso di quegli anni. A questo fondo base, a questo corpo base, si aggiungono poi nel tempo degli altri fondi. Si aggiunge il fondo Cuomo, si aggiunge il fondo Spazzali, si aggiunge un fondo Volponi, perché non lo so, però diventa così un luogo che si arricchisce di pezzi di storia importante e di quel tempo, pur restando un luogo, anche questo va detto, che è costantemente in dialogo con le forme di lotta contemporanea, ecco. Non immaginatelo come un archivio stantio e polveroso. Polveroso è polveroso, ma stantio no. sono due ragioni, ordini di ragioni diverse. E, va bene, in questa serie di fondi si arrivano e portano con al nostro assoluto piacere, come posso dire, soddisfazione, accordo, i compagni loro e altri, diciamo, il materiale di Piero. E devo dire, ora questo lo dico come la parte dell'archivista, un contributo buonissimo, perché si occupano anche della messa in ordine, della catalogazione, della sistemazione dei materiali, cosa che non è scontata, perché arrivano poi invece altre donazioni che restano un po' là. Quindi io devo fare un plauso particolare a loro, da fare anch'io, perché hanno permesso anche che noi si arrivasse qua in un tempo ragionevole e l'hanno fatto bene e bravo. I legami tra Piero e Primo, la Calusca, l'archivio, la storia, insomma, le si possono immaginare e basta. Cioè, dico, per dire, ora che dicevo prima, che siamo aperti, come dire, in costante tentativo di contatto con la situazione e cerchiamo di come dire, contribuire pezzo con la memoria a parte della realtà presente. E diciamo testimone l'ultimo libretto è questo qua che è uscito proprio ora contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, che viene prende diciamo slancio, è detto male, però è così, dalla storia di Alfredo Cospito, dalla sciopero della fame di Alfredo Cospito, e che riguarda però una questione ben più grossa. Ecco, bravo. E con cui diciamo, in cui abbiamo voluto esserci e contribuire con questo pezzo editoriale. Basta, io lascerei la parola a voi, che meglio sapete che cosa dire, e intanto vi saluto tutti molto volentieri. Grazie Tommaso. Allora, le ragioni per cui questo fondo Piero Bassi, se andate sul sito dell'archivio Primo Moroni ci sono diversi fondi, alcuni non sono ancora presenti ma saranno presto indicizzati, tra cui penso Giussani, no? Il fondo Giussani, prima o poi qualcuno dovrà metterci le mani, un compagno economista che soprattutto negli anni 90 teneva corsi sulla teoria della crisi marxista, corsi che con Piero seguivamo peraltro. Il motivo per cui esiste un fondo Piero Bassi presso l'archivio Primo Moroni risponde a tre ragioni. La prima è una ragione personale di alcuni di noi, nel senso che viene un momento nella vita di ognuno di noi in cui le persone più anziane di te e che per te hanno rappresentato qualcosa nel corso della tua vita mancano prima di te. E questo è normale. Per cui avviene che a un certo punto Piero manca. E alcuni di noi si devono incaricare di occuparsi delle poche cose che lasciava. Ecco, poche è una parola grossa, perché io non so quanti di voi frequentassero la casa di Piero, che era un monolocale che probabilmente prendeva un ottavo di questa stanza, ok? E c'erano dentro, al netto di quelli che dei libri che aveva regalato, perché uno degli atteggiamenti di Piero era: ho messo da parte un libro per te perché è molto interessante e te lo regalo. Okay? Quindi al netto dei libri che regalava le persone, noi abbiamo trovato 653 volumi, 653. Veramente, chi l'ha vista quella casa o chi riesce a immaginarsela, era uno spazio veramente limitato. Insieme a questi 653 volumi c'erano qualcosa come 370 fotocopie di altri testi e altre documentazioni che non erano disponibili in volumi e che lui aveva recuperato da siti, da riviste, eccetera, e che sono parte di questo archivio. Adesso vi racconteremo come è costruito questo archivio. Quindi la prima ragione era personale: improvvisamente ci troviamo di fronte alla situazione nella quale Piero non c'è più, bisogna svuotare casa sua perché era una casa popolare, perché come qualcuno ha detto Piero non ha concesso praticamente nulla al suo nemico, ivi compreso essere, come dire, iscritto nella lista di quelli che potevano scrivere delle autobiografie, raccontare la loro storia, finire in televisione, discussi o non discussi. Lui non se l'è mai permesso, non ha mai voluto, quindi ha sempre rifiutato qualunque testimonianza sulla sua storia personale, e noi ci ritroviamo con 653 volumi, una serie di effetti personali, che quelli sono fatti che non riguardano oggi, e prendiamo una decisione. La decisione è stata: siccome all'interno di questo corpus di volumi ci sono dei testi che, vuoi per l'edizione, vuoi per la loro natura, non sono più disponibili da nessuna parte, questi testi, e adesso dopo ve ne racconteremo alcuni, abbiamo deciso di conferirli, il termine tecnico è corretto, conferirli all'archivio Primo Moroni, proprio perché ragionando con i compagni abbiamo detto: non è possibile che questo patrimonio di conoscenza resti, come dire, finisca in un qualche rigattiere, in qualche discarica o nelle case private di alcuni di noi. Alcuni dei libri che sono presenti in questo fondo sono libri che lui ci aveva regalato e che noi abbiamo deciso di rimettere in questo fondo perché riteniamo che sia utile, e qui arriviamo alla seconda ragione, utile metterla a disposizione di un pubblico più vasto. La seconda ragione è perché abbiamo voluto farlo, quindi il motivo non è personale, il motivo è di carattere politico. Abbiamo deciso di costituire un fondo, quindi in realtà tecnicamente una sezione di una biblioteca che ha uno schedario che può essere consultato, e un domani degli studenti che dovranno preparare una tesi, degli studiosi che dovranno, come dire, informarsi su alcuni aspetti, potranno accedere a questi testi, e questi testi sono schedati, catalogati con i principi di una biblioteca all'interno dell'archivio Primo Moroni. Perché decidiamo di salvaguardarli? Perché anche in questo caso c'è, diciamo, un elemento personale, ma un elemento personale che si trasforma anche in una valutazione di carattere politico. Piero per anni ha regalato, lo dicevo prima, libri a tutti noi. Non c'è nessuno di noi che non sia passato a casa sua per partecipare a una qualunque discussione di cui parlavamo, d'ogni possibile argomento, e cui alla fine o all'inizio della serata Piero non dicesse: ho messo da parte due libri per te. Okay? Io mi ricordo che una volta la mia compagna, un'informatica, aveva messo da parte un libro contro i computer che volevano dominare il mondo di questo genere, e disse: portalo a lei per cortesia, secondo me è interessante per lei. Da un lato c'è questo aspetto, no? che è di carattere personale, dall'altro c'è un aspetto di carattere storico e politico, se mi permettete. Piero, come molti della sua generazione, si è formato sui libri. Una battuta che ci ha riferito Cecco Cattaneo, fratello di Graziella Cattaneo, figli entrambi di Lupo Cattaneo, compagno delle Brigate Rosse, anche lui partigiano, compagno delle Brigate Rosse, ci racconta che una volta aveva chiesto a Piero: senti, io non ho ben capito questa storia del marxismo, me la spieghi meglio, no? E Piero, che era il primo della classe, no? Perché anche la vulgata che c'è in giro sugli anni 60 e 70, che ha portato al potere chissà che incompetenti, la realtà è che i compagni che hanno fatto gli anni 60 e 70 erano i primi della classe, quelli con i voti più alti di tutti, quelli più competenti di tutti. E Piero serenamente disse: studia, ci sono i libri, basta leggere. Okay? La cosa che era fondamentale nella generazione di Piero era che un corpus di idee era conservato nei libri, non nei forum o non nei social o roba di questo genere. E perché lo dico? Non per fare l'antimodernista, intendo dire, perché in un libro c'è una maniera in cui si argomenta una tesi. Cioè c'è una tesi, la si confuta, la si discute, la si sostiene e alla fine si arriva a una conclusione. Le persone della generazione di Piero, non soltanto Piero, si sono formate su quei libri. Se quei libri non fossero stati trasmessi, se Marx non avesse scritto dei libri, se Engels non avesse scritto dei libri, se Buonarroti non avesse scritto dei libri, generazioni e generazioni di rivoluzionari non si sarebbero formati come si sono formati. E questo è un dato di fatto. Possiamo discuterne se sia giusto o sbagliato, se ci piace tornare ai libri, se vorremmo un'epoca diversa dalla nostra, ma la realtà è che quella generazione si è formata sui libri e quindi quei libri noi abbiamo ritenuto fondamentale che venissero conservati, messi in una biblioteca, perché chiunque delle generazioni che arriveranno dopo di noi, perché noi siamo una generazione di mezzo rispetto a quella di Piero, possono accedere a quei libri, a quel pensiero, e quei libri e quel pensiero vengano salvaguardati. Per l'intellettuale come lui è un grosso sforzo, è una cosa molto amichevole. No, hai ragione, hai semplicemente anticipato una cosa: quella generazione non si limitò ad accatastare libri e a leggerli, fu coerente rispetto a alla propria analisi o alla propria lettura di quei libri. Se il Capitale di Marx dimostra scientificamente, o forse ha tentato di dimostrare scientificamente, che il capitalismo è transitorio e dovrà essere superato, se i testi di Lenin hanno detto, hanno specificato, hanno argomentato le diverse forme della rivoluzione in diverse epoche storiche, c'è un gruppo di compagni in quell'epoca storica che quei libri li legge e li applica. Li applica perché quei libri diventano argomento di discussione di gruppi di compagni più ampi, e quindi alcuni di questi prendono, lo vedremo dopo nel video che vi faremo vedere, prendono la decisione di smettere di discutere se il feticismo della merce voleva dire una cosa piuttosto che l'altra e tentare l'assalto al cielo. Però non ho ancora citato la terza ragione per cui siamo qua. La terza ragione per cui siamo qua è che l'ha anticipato un po' Tommaso dicendolo. Qua dentro spesso e volentieri Piero ha incrociato, no, queste stanze per tante ragioni. In alcuni casi perché discuteva con Primo. Quando vedrete il filmato tra un po' è Primo Moroni che introduce Piero Bassi. Non è un caso, nel senso che Primo Moroni fa parte del comitato che organizza questo dibattito a Zurigo in un centro sociale che si chiama Rote Fabrik, e un dibattito sulla lotta armata dove sono presenti i compagni di Action Direct, della RAF, delle Brigate Rosse e di altre organizzazioni, una organizzazione svizzera, guerrigliera svizzera, e è Primo che introduce Piero. Quindi comunque Piero e Primo discutevano spesso e volentieri. Non è un caso che personalmente, citiamo un altro caso personale, mi cazziò perché io ebbi una discussione con Primo ai tempi del dibattito sul convegno d'Arezzo. Ma la cosa più interessante è che spesso e volentieri Piero disse questa iniziativa facciamola in Calusca. Proprio per quello che diceva prima Tommaso, Calusca è sempre stato per il ruolo di Primo un territorio franco, un territorio nel quale compagni di diverse aree politiche, in alcuni casi addirittura confliggenti, penso, non so, la diaspora bordighista, i maoisti, i trotskisti, potevano serenamente trovarsi perché Primo Moroni aveva detto: qua dentro si discute, qua dentro si dibatte, qua dentro si argomentano le proprie tesi, poi fuori potete litigare finché volete, ma qua dentro è patria di tutti. Certo, patria di tutti, non dei fascisti, non dei riformisti, non degli opportunisti. E Piero qua dentro è stato diverse volte qua dentro perché era venuto diverse volte a seguire dei convegni, abbiamo organizzato dei convegni di cui lui era il promotore, mi ricordo, abbiamo parlato di tantissimi temi qua dentro, e quindi la prima ragionamento che abbiamo fatto è: costituiamo l'archivio dentro il fondo, dentro l'archivio Primo Moroni, perché l'archivio Primo Moroni lo tutelerà, gli darà lo spazio che è giusto dargli, e farà in modo che non stia in qualche scatolone, perché ecco, molti archivi in giro per l'Italia lasciano negli scatoloni i documenti delle persone. Io volevo semplicemente raccontarvi due parole su come è fatto l'archivio. Alberto, tu se vuol dire qualcosa, dillo, portami via il microfono. Allora, prima vi racconto come è strutturato l'archivio. L'archivio è strutturato in questa maniera, non ha struttura, nel senso che man mano che noi abbiamo messo via i libri di Piero in diversi scatoloni, abbiamo tentato anche di distribuirli per senso logico, non ce l'abbiamo neanche fatta perché non avevamo neanche dell'umore troppo giusto, abbiamo organizzato, quindi è un archivio disorganizzato, man mano che uscivano li schedavamo. Potete cercarli sul sito dell'archivio Primo Moroni, c'è una piccola biografia di Piero e c'è lo schedario, quindi può essere consultato. Manca un pezzo dello schedario. Qua dentro in questo momento è presente tutto il patrimonio bibliografico, quindi di volumi, non sono presenti quello che noi chiamiamo noi facenti finta di essere archivisti chiamiamo il grigio, cioè tutto quei documenti che non hanno una dimensione di volume, quindi fotocopie, appunti, cose di questo genere, perché abbiamo avuto un piccolo problemino informatico, ma adesso lo risolveremo, e quindi ci sarà anche l'elenco dei documenti, delle fotocopie che Piero aveva ammassato. Perché vi faccio questa distinzione? Perché da un lato ci sono dei libri che toccano argomenti di ogni ordine e grado. Chi conosceva Piero, chi non lo conosceva bene come noi, deve sapere che c'erano opere del marxismo, classici del marxismo, c'erano testi sulla lotta armata, c'erano testi sul materialismo, c'erano opere di poesia. Piero era un innamorato di Leopardi, sia come filosofo che come poeta. E poi c'erano anche altri testi. Piero era uno studioso di filosofia, nel senso che era uno studente di filosofia che non ha fatto in tempo a laurearsi. Alcuni di noi sono riusciti a recuperare, e chissà se un domani questo fondo riesce a ottenere anche un minimo di tutela da un punto di vista giuridico, potremmo cercare di recuperare presso l'Università Statale di Milano i documenti che lo riguardano. Ci sono i documenti che sono lo statino, no, degli esami che dava da Piero, e quindi era uno studente di filosofia, quindi c'erano testi di filosofia, c'erano testi di arte. Piero era innamorato dell'arte, e soprattutto Graziella Cattaneo, la sua compagna, era innamorata dell'arte. C'erano fumetti, c'erano gialli, cioè la quantità di interessi e la capacità di argomentare su ognuno di questi argomenti di Piero era impressionante. L'unica cosa che non abbiamo schedato sono i fumetti. gli albi e fumetti, esatto, sì, tipo Tex, cose di questo genere, perché ce ne mancavano le forze e perché abbiamo ritenuto che non fosse, non portasse ulteriore informazione a questo fondo. Ma i libri gialli li abbiamo schedati. Piero era un sofisticato lettore di libri gialli e un attento lettore di libri gialli. Quindi ci sono documenti di ogni ordine e grado. Dopodiché c'è questo corpus di fotocopie di documenti o di stampate di siti che oggi non esistono più e che toccano tantissimi temi. Ve ne citeremo tre che in particolare secondo noi sono rilevanti. Il primo è il tema del sionismo. Piero scrisse anche diversi testi sul ruolo tra sionismo e ebraismo e tra il fatto che questo rapporto è estremamente complicato. Se è vero che sionismo non è il movimento ebraico, non è ebraismo, contemporaneamente c'è la scelta, come dire, consapevole di alcune delle comunità ebraiche nel difendere il sionismo. C'erano testi che riguardavano la medicina e soprattutto il rapporto politico e sociale della medicina, non scientifico, e gli altri testi che erano importanti. Non me lo ricordo, penso di sì, però ripeto, 653 più 380, non me li ricordo tutti, però ogni tanto gli scorro, e l'altro corpus di documenti che era veramente interessante erano i documenti sull'Islam e il cristianesimo. Piero negli ultimi anni della sua vita ha personalmente seguito un corso in statale su storia del cristianesimo, su storia delle religioni, perché una delle sue tesi era che esistono delle correlazioni purtroppo elevate, no, tra alcune manifestazioni del pensiero dei comunisti e il pensiero religioso. E lui voleva... Ma tu Gino devi interrompere. No, è vero. No, è verissimo. No, ma te lo dico no, perché... No, ma hai perfettamente ragione. E una delle ragioni è continuare... Analfabeti sono gli altri, Gino. Adesso non vorrei essere... Ma rispetto a lui eravamo tanto analfabeti, sì, esatto. E infatti quando sentirete il video, chi lo conosce già lo rivedrà con piacere, il video racconta appunto questo passaggio che dice Gino. L'altro aspetto fondamentale è che Piero era quello che diceva, qui per esempio questo è un punto debole di Marx, ok? E io ne ho visti tanti che hanno trovato i punti deboli di Marx, non durano 30 minuti in una discussione, nel senso che ci provano... Secondo Piero c'erano dei punti deboli in Marx e il problema è che Piero la reggeva la discussione, cioè è probabilmente uno che poteva stare con Marx a dire guarda, secondo me Carletto, secondo me questa roba l'hai presa, è stata un po' sbagliata, ecco. Ecco, lui avrebbe retto una discussione con Marx ed Engels. Io tanti altri che ho visto, i punti deboli di Marx erano abbastanza ridicoli. Adesso, per non avviarvi ulteriormente, vi citiamo alcuni libri che abbiamo trovato che sono incredibile, e il motivo per cui il nostro consiglio è andate sul sito, guardate lo schedario, andate su in Calusca, dopo se qualcuno vuole andare su a vedere dove c'è gli scaffali col fondo Piero Bassi, però alcuni libri che sono anche curiosi, no? E che dimostrano la capacità di approfondire i temi. Ne ho presi alcuni, solo alcuni, adesso, due o tre, un po' pesati. Allora, il primo che volevo segnalarvi è lo Zibaldone di Leopardi. Questo è famoso, non è curioso, tutti sanno che esiste lo Zibaldone di Leopardi. Per Piero Leopardi era il pensatore del materialismo più compiuto che c'era stato in Italia. Naturalmente Piero sapeva quali fossero le diverse correnti, materialismo inglese, materialismo francese, ma sosteneva qua dentro ci sono le basi che hanno determinato tutti quelli che sono arrivati dopo, gli Engels, i Marx, i Buonarroti, eccetera. Se non avete letto questa roba avete dei problemi a concepire, cioè, così ci disse una volta. Quindi, come dire, sicuramente ci sono diverse opere di Leopardi, una di queste è lo Zibaldone. Un libro che è meraviglioso per il solo titolo è Pablo Neruda, Incitamento al Nixonicidio. Io non so se mai nessuno ha saputo che Pablo Neruda ha scritto un libro che dice, un libro per sostenere che Nixon vada ucciso. Esatto. Però in un'epoca storica nella quale osare dire che alcuni sono andrebbero messi in galera, addirittura fra un po' ti arrestano per il solo fatto che inveisci contro qualcuno, figuriamoci uno dei poeti più famosi del mondo che scrive un libro a favore del Nixonicidio. Ecco, era nella biblioteca di Piero, giusto per... Esatto, esattamente. Due libri che vi consiglio di leggere entrambi sono La medicina del capitale, dopo il lockdown, la pandemia e tutte le... è di Jean-Claude Polac, ok? Dopo tutta, come dire, quello che abbiamo vissuto dal 2020-2021, ok? Che è stato oggettivamente una svolta di carattere epocale, in realtà molti avevano già studiato la medicina in quanto non scienza, ma in quanto rapporto sociale. Quindi tutto il dibattito più o meno idiota tra sono a favore di una tesi piuttosto che dell'altra, ecco perché dicevo prima, è una generazione che si è formata sui libri e sulla capacità di argomentare, non sulla polarizzazione, io sono per il Milan, sono per l'Inter. Con tutto il rispetto per i milanisti e sugli interisti, non siete mai passati la storia per gente che era in grado di argomentare una tesi, perché stare per il Milan o per l'Inter o per la Juve, ce ne sono alcuni juventini qua dentro, so bene, o per il Verona, ok, o per l'Hellas Verona, non è un argomento, no? Non è un argomento, è... La faida, juventini... Bravissimo. Il compagno Curcio... Questo lo dice lui, è una delle altre. Esatto, esattamente. Però bisogna vedere un attimo, però deve parlare uno per volta. Posso? Allora, scusate, dico due cose, poi esattamente. Però ecco, finisco per descrivere i libri. Allora, tutto il dibattito, la medicina è una scienza, bisogna ascoltare gli scienziati, non sono tutti venduti, è risolta in alcuni dei testi o anche delle fotocopie che Piero aveva ammassato, che spiega che la medicina, come qualunque scienza, come qualunque arte, è propaganda di una delle classi. Che questo significhi che è tutto falso? Ma no, ma il primo che dice che sono tutti venduti e che acqua fresca quella che ci vendono nei medicinali è un'idiozia integrale. Il problema è che la società è organizzata in una certa maniera, produce in una certa maniera e quindi produce anche la scienza medica che la società capitalistica ha definito. E infatti insieme a questo c'è un libro di Giorgio Cosmacini, vi consiglio di leggere qualunque libro Cosmacini abbia scritto, è stato un grande scienziato, un grande medico, è tuttora perché è un signore di una certa età, è un signore di una certa età che spiega anche che il concetto di salute, no, questo libro si chiama La medicina non è una scienza, breve storia delle sue scienze di base, perché dice che la medicina è una scienza sincretica che prende dalla chimica, dalla biologia, dalla fisica. Cosmacini spiega che il concetto di salute è un concetto storico. Cioè noi stiamo bene, il nostro concetto di stare bene, il nostro del XXI secolo, è diverso da quello che avevano nel XVI, nel XV, del X secolo. E quindi non esiste una forma come universale di medicina, come non esiste nessuna forma universale di scambio, non esiste nessuna forma universale di produzione, ma sono tutte figlie dei rapporti di produzione. Esatto, solo il Giappone ci batte per anziani. Gli ultimi due libri, prima di fare due chiacchiere con tutti voi e poi farvi vedere il video, che secondo me è importante che rivediamo tutti, chi l'ha visto e chi lo vede per la prima volta, sono due libri dedicati al nazismo. Piero negli ultimi anni della sua vita ripeteva sistematicamente questa frase: il fascismo è un fenomeno di sinistra, non è un fenomeno di destra. Cioè il fascismo nasce antiliberale, formalmente antiliberale, anticapitalista, eccetera, e non è un caso che ci siano stati dei fenomeni di sbandamento. Sì, però alcuni, non è un caso che venisse dai socialisti massimalisti, che ci fossero compagni che erano stati dei rivoluzionari che sono poi entrati. Esattamente. E compreso il compagno Bombacci. Compagno Bombacci è quello a cui Lenin dice: uno poteva fare la rivoluzione d'Italia, ve la siete fatto fregare dai borghesi, ed era Benito Mussolini. Questi due libri che vi segnalo sono il primo, che si chiama Hitler e l'enigma del consenso, di Jan Kershaw. È veramente interessante perché è uno studio sul fatto che uno dei pensieri più deboli sulla faccia della Terra sia riuscito a ottenere il successo che ha avuto, cioè il pensiero di Hitler. E spiega come sia facile, no, manipolare le masse e, sotto il profilo tecnicamente democratico, mettere il potere nelle mani di qualcuno che poi lo abolirà e farà quello che farà. Cioè, perché l'enigma è questo: come sia stato possibile un pensiero debole, sostenuto da gente debole e sostanzialmente anche banalotta, cioè non particolarmente sofisticata, diventare andare al potere e fare quello che ha fatto il nazismo. L'altro libro che vi consiglio, e non è un libro, questo è il più difficile di tutti quelli che vi ho citato, è un libro che si chiama la lingua del Terzo Reich, di un autore che si chiama Viktor Klemperer. Viktor Klemperer fu un professore universitario emarginato dal nazismo, che dovette, come dire, vivere di espedienti perché aveva perso la cattedra, e che fa uno studio sul linguaggio del Terzo Reich, e che è in realtà uno studio sul linguaggio di tutti i governi autoritari e dittatoriali, e che anticipa il ragionamento orwelliano, no? Quando tu semplifichi l'organizzazione del linguaggio, lo semplifichi riducendo il numero delle parole, riducendo il numero degli argomenti che sostieni, e noi viviamo in un'epoca in cui viva Zelensky, viva Putin, sono a favore di uno, sono a favore dell'altro, l'Inter, viva il Milan, ma non c'è nessun argomento a favore o contro. Cioè adesso, si ragiona per slogan. Di recente un fisico che si era permesso di dire che gli sembrava abbastanza imbarazzante che mandassimo una cacciatorpediniere sui confini sulle coste della Cina, vicino alle coste della Cina, un paese che a noi non ci ha creato per il momento nessun problema dal punto di vista militare, è uno di quelli che è sicuramente un filo putiniano. Perché? Perché non è a favore, no, dell'aprire conflitti nei confronti della Russia e nei confronti della Cina. Ora, questa semplificazione sia del linguaggio che dei termini è raccontata qua dentro. Tutti i governi autoritari e dittatoriali costruiscono la propria struttura di pensiero semplificando il proprio linguaggio. E non è un caso che ancora una volta fosse nella biblioteca di uno come Piero, che il linguaggio semplice tutto era fuorché facente parte del suo patrimonio. Basta, io ho finito, non sapevo cos'altro dire. Sì, poi a tutti i presenti la riflessione su quanto i social operino come formato proprio la riduzione del pensiero a degli schemi preordinati e assolutamente scevri di contenuti, ecco. Questo è un altro pezzo di magari di riflessione che Piero non aveva ovviamente ancora sviluppato, ma aveva, io credo, intuito quale fosse la direzione in cui ci si stava muovendo, no? La riduzione programmata e consapevole attraverso dei formati che imponessero delle tecniche di pensiero assolutamente semplificate, esattamente quello che Alberto stava dicendo prima. Io aggiungo pochissime cose perché Alberto è stato, credo, assolutamente esaustivo. Allora, su Primo Moroni, chi ha vissuto a Milano negli anni 80-90 si ricorda il ruolo cittadino che ha avuto questo intellettuale, questo compagno intellettuale che è sempre stato disponibile a mettere a disposizione le sue capacità, la sua profonda cultura, le sue relazioni per chiunque volesse approfondire qualche argomento e anche per tutti quelli che volevano portare avanti delle lotte. E qui ne approfitto, ecco, per ricollegarmi a un'altra attività archivistica che abbiamo portato avanti in questi anni. Noi abbiamo anche iniziato a fare l'archivio di scienze politiche della Pantera e poi del collettivo politico universitario che è stato figlio della Pantera di scienze politiche. Tutti noi che abbiamo partecipato a questo movimento ricordiamo la presenza di Primo Moroni. Quando avevamo qualcosa da discutere, da approfondire, ecco che arrivava Primo in facoltà e era sempre disponibile a discutere con noi, a darci argomenti, a darci motivi di riflessione, a darci bibliografie. E quando volevamo fare delle assemblee era sempre disponibile a essere uno dei relatori. Quindi Primo ha giocato questo ruolo a livello cittadino. Piero, per vari motivi che è inutile stare a spiegare, non ha potuto giocare questo ruolo cittadino, ma per noi, giro di compagni, di un'altra generazione tra l'altro rispetto alla sua, ha giocato un ruolo per certi versi analogo, cioè una figura di riferimento, un intellettuale di riferimento che era sempre disponibile a darti strumenti di pensiero e a confrontarsi con te, anche se tu avevi molti strumenti meno dei suoi. Ed era curioso anche, cioè non c'era solo un rapporto univoco, no? Unilaterale, noi che andavamo a chiedere a Piero. Era Piero che era curioso di confrontarsi con noi. E quindi anche quello che diceva prima Alberto, no, il libro che ti viene regalato, era un modo per dire di questo argomento io voglio discutere con te. E infatti poi c'erano discussioni lunghe, infinite. Diciamo, a me, poi vabbè, al di là della discussione c'erano proprio gli omaggi a me che faccio disgraziatamente l'impiegato pubblico. Un giorno si presentò con un bel libro con il pubblico impiego nella letteratura, cioè uno studio che da Kafka a Balzac a Dickens riportava tutte le storie, le biografie dei grandi scrittori che hanno avuto esperienze come impiegati pubblici e il pubblico impiego come veniva presentato nei romanzi dall'Ottocento al Novecento, no? Questo era Piero. Quindi vabbè, tracciare un, se fosse necessario, un filo rosso tra i due personaggi e questo posto dove siamo. Scusa, ho praticamente finito, no? L'archivio. dei ragazzi generosi. Noi qua eravamo meno rissosi all'epoca. Vabbè, l'archivio, che poi chi vuole può, penso, anche visitare, funziona così. Ci sono libri e c'è questo materiale grigio. Noi nei prossimi mesi cercheremo di renderlo sempre più semplice da consultare. Può essere consultato qua. I libri non vengono dati in prestito, tantomeno il materiale grigio, che poi sono volantini, fanzine, foto, insomma un po' di tutto. E ovviamente l'auspicio è che non sia solo uno strumento per chi vorrà fare delle tesi di laurea o degli approfondimenti personali, che peraltro sono assolutamente auspicabili e dignitosi, ma anche per chi in un futuro riprenderà in mano, diciamo, la lotta, la mobilitazione, e magari troverà dei motivi di ispirazione in ciò che è stato fatto nel passato, che è stato fatto da gente come Piero Bassi, che è stato fatto in modo assolutamente molto più modesto e cialtronesco da chi ha occupato scienze politiche e così via. E però, ecco, si potrà confrontare anche con i limiti, con gli errori, e troverà collezionati tutti i materiali che altrimenti si sarebbe dovuto andare a cercare in giro, andando a interrogare i protagonisti. Ultimissima cosa, proprio per questo motivo noi vorremmo fare anche interviste ai protagonisti, perché non solo la lettura ma anche la testimonianza riveste un certo interesse, anche se ovviamente può anche essere fuorviante, perché ognuno poi dopo 20-30 anni si ricorda un po' quel cazzo che gli resta in testa, e quindi ho finito. Però c'è la prima Lada. Gino, c'è la prima Lada. Vediamo se ti do questo. Non so dove arriva. Okay. Ciao a tutti. Io sono Ada e sono cresciuta politicamente con Piero. Sono lodigiana, facevamo parte dello stesso collettivo La Comune del Lodigiano. Hai citato Cecco Cattaneo, hai citato Il Lupo, insomma io cresco da lì. Piero era uno studente modello della terza B del liceo classico, di Lodi, e in quella terza B c'erano dei soggetti particolari. C'era Piero, c'era Giancarlo Esposti, uno dei NAR, ucciso al Pian del Rascino in un conflitto a fuoco, e c'erano un sacco di personaggi particolari. Metà erano comunisti, metà erano fascisti. E questo era il clima della pianura della pianura padana. Piero, secondo me, e secondo, non so, la ricostruzione che si può fare, che posso fare io modestamente, della sua esistenza, era un grandissimo romantico prima ancora di essere un comunista. E l'innamoramento, per esempio, con Graziella, data dall'epoca della militanza nel collettivo La Comune. Graziella era di una famiglia di Cattaneo, purtroppo tarata da una malattia genetica che ha portato via tre figli e la madre, prima di tutti. E diciamo che la passione di Piero per Graziella è durata una vita intera. La vita li ha separati, lei ha avuto anche un'altra esperienza sua, personale, di innamoramento nei confronti di un altro compagno, ma Piero ha sempre perseguito. Allora, quando Piero è stato arrestato nel 74, pochi mesi prima io avevo aperto a Lodi una libreria militante, diciamo, che diffondeva una cosa rara, io ero piccolina fra l'altro. E già allora ci eravamo coordinati con Primo Moroni per costruire questi punti rossi, che era una rete di librerie militanti che allora ci sembrava, ed è stata, una cosa molto importante. Ero io a Lodi, prima di tutti a Milano, poi c'erano altre librerie di Milano, c'era, mi ricordo, Dino, se non ricordo male, che aveva un'altra libreria in Via degli Orti, c'era una libreria a Bologna di Elio, che poi ognuno ha fatto la sua strada, diciamo. Però, insomma, in quell'anno lì avevo aperto questa libreria. Vi dico un aneddoto magari irrilevante, ma che però fa capire com'erano le Brigate Rosse all'inizio della loro storia. Pierino, cosiddetto il biondo, e Pierone, il suo compagno e amico e fratello di quegli anni, che venivano entrambi da Casal Pusterlengo, naturalmente, data la nostra militanza nel collettivo La Comune, mi chiedono un favore. Non vi dico quale favore, insomma, era un favore di tenere da parte qualche storia, qualche oggetto, diciamo. No, era un oggetto di stampa, non era un oggetto armato, comunque. Cosa succede? Che nel 75, quando uccisero Mara Kagol, in quel giorno lì, loro erano già stati arrestati, e loro mi dicevano sempre: stai attenta, bisogna tenere la sicurezza innanzitutto, non dare numeri di telefono, non dare niente, va bene, io faccio così. Loro li arrestano e avevano un taccuino di appunti. No, questo per farvi capire che non si inventa niente, cioè, voglio dire, è solo l'esperienza che poi ti fa capire dove devi arrivare. E quando mi chiamò Caselli a Torino il giorno della morte di Mara Kagol, perché, io mi domando, ma perché viene a chiamare me, che sono un nulla rivestito di niente? Mi chiamano da Torino a Lodi, io c'ho 20 anni, non ne so niente di tutta sta storia. Bene, i due carissimi, amatissimi Pieri avevano questa agendina al covo di Robbiano di Mediglia, dove c'era il numero di telefono della mia libreria camuffato con due numeri prima del numero vero. Cioè, questo era il concetto di clandestinità che c'era allora. Questa cosa qui, voglio dire, con tutto il bene e l'amore possibile e immaginabile che potevo avere per entrambi, ma ha inciso, insomma, hanno perquisito casa mia, mi hanno portato a Torino, me la son cavata e non me ne fregava più di tanto, però per dire qual era il clima, anche un po' rudimentale, nel quale noi ci muovevamo, ecco. E in questo clima rudimentale, al di là del romanticismo totale di Piero, devo dire che incideva molto il paesaggio, la pianura, la nebbia e il fatto che noi, quando ci muovevamo in quegli anni lì, eravamo coperti dalla nebbia. Noi non eravamo dei metropolitani all'inizio, no? Lo siamo diventati dopo. La nostra protezione naturale era dovuta a fatti, eventi naturali. Ci si muoveva più o meno dentro la nebbia, e dentro la nebbia sembrava che questa cosa potesse funzionare. In realtà funzionava poco. No, questo volevo dirlo così per darvi un collegamento fra Primo Moroni, che comunque credo modestamente di essere stata io in qualche modo, perché poi negli anni successivi questo rapporto, vabbè, poi mi hanno arrestato, non ci sono stata più, eccetera, eccetera. Però è vero che Piero è stato un grande intellettuale, ma Piero è sempre stato un militante, cioè un, come posso dire, la sua esperienza concreta, è sempre stata un po' privata da esperienze metropolitane. Noi allora, è vero che ci si nutriva anche di libri, ma soprattutto ci si nutriva ogni giorno la guerra del Vietnam ci dava i rapporti delle campagne, e JAP comandava le nostre azioni, nel senso che se noi sentivamo che in Vietnam si avanzava, a noi sembrava che il mondo, la rivoluzione fosse possibile, non è soltanto merito, diciamo, dei libri o della lettura o della cultura, no? C'è stata questa grande esperienza concreta, pratica, che non era tanto nostra. C'era la guerriglia in America Latina. Purtroppo, Piero, gli è mancata, o anche per fortuna, devo dire, che l'ha in qualche modo protetto da magari anche delusioni successive, no? Cioè, Piero, dal 74, un altro piccolo episodio che mi ricordo io è che sono partita da Lodi, sono arrivata a Palermo, lui era al carcere del Lucciardone, per portargli un pacco, ma sono andata così, cioè alla spera in Dio, da sola, no? Arrivo a Palermo e nessuno mi faceva consegnare sto pacco. Alla fine incontro uno che mi vede piangere lì sul marciapiede vicino al Lucciardone e mi dice: vuoi portare un pacco? Perché avevo in mano il pacco. E gli ho detto: eh sì. Allora mi ha detto: vieni con me che te lo faccio portare. Io non so chi fosse questo, temo che non fosse sicuramente un compagno, che, ecco, però il pacco a Piero gli è arrivato. No, per dire che questa nostra avventura, che è stata bellissima, cioè veramente totale, e che il lato intellettuale è stato notevole soprattutto per Piero, non per tutti, ma soprattutto per Piero, ma non è stato l'unico, ecco, cioè nel senso, Piero è stato di un'umanità straordinaria, e anche il fatto che si sia sempre tenuto schivo e al di fuori della narrazione, io concordo pienamente con lui, cioè nel senso, noi siamo gli ultimi a poter raccontare, ne parlavamo prima con questo ragazzo che ho dietro, no? Come la soggettività del discorso può creare fraintendimenti enormi e ingiustizie anche dal punto... L'ultima cosa che voglio dire è questa qui. Quando facevo l'università io, cioè fino al 72, dal 72 al 77, Piero era stato arrestato prima, però vi assicuro che qualsiasi facoltà si faceva a Milano, qualsiasi mobilitazione, occupazione, eccetera, eccetera, se c'era una lezione di Giulio Maccaccaro a medicina, noi tutti, da architettura partivamo per medicina, da scienze politiche si trasferivano a medicina, perché Maccaccaro è stato quello che, diciamo, nei nostri anni, voi forse non lo conoscete, però per noi la strada della medicina è una strada che taglia come, cioè, se fossi una taoista direi, è come tagliare un pezzo di carne senza usare il coltello, cioè di separare dei pezzi e di entrare dentro nella materia. La medicina, per Piero, ma credo per molti se ci ragionassero, e adesso sarebbe ancora una delle grandi strade da percorrere. Peccato che non abbiamo più dei personaggi così visibili, così autorevoli, così potenti, no, per comunicare. Ma quelle comunicazioni che avevamo noi andavano oltre la teoria, era una grossa pratica della quale noi ci prendevamo il succo, cioè, ripeto, se da architettura partivi per medicina è perché capivi che quella strada lì era la strada che ti faceva stare con tutti. E Piero è stata sempre, il suo ragionamento sul nazismo e sul fascismo è evidente. Il sionismo è nazismo, nessuno lo dice, nessuno osa dirlo, ma in questo momento tutti i sionisti del mondo sono lì e stanno vincendo, voglio dire, cioè nel senso, adesso insieme al concetto di imperialismo bisognerebbe sviscerare questo, quindi benvengano le letture di Piero. Basta. Okay. Grazie. Gino. Gino. Non voglio fare un appunto alla compagna che ha avuto. Però io io ragiono come Piero, che ho vissuto un po'. Cioè non faccio sconto a nessuno. Microfono! Prendi il microfono. Te lo porti sento, Gino. Cioè, e tanto viene sta compagna qua, perché cioè, la compagna che parla dalla compagna Mara, non dice mai la compagna Mara, dice Mara. Già questo qua è una cosa che mi dà un po' fastidio. Ha detto solo Mara, come se dice compagna fosse una cosa. Ma questo qua è un piccolo appunto, non prendetela male. È un piccolo appunto, tu lo puoi permettere, vabbè. Ma no, politicamente non te lo puoi permettere, perché è una compagna che ha perso la vita facendo quello che ha fatto. Non te lo puoi permettere, non c'è nessuno per permetterlo. Punto. No, io dico le cose che penso, poi pigliatele male, cioè va bene, bisogna dire le cose che si pensa, punto. Dire che quella era una compagna che è morto non è mica una cosa di sincero, invece non l'hai mai detto. Ma è sottinteso, le sottintese le fanno solo, sai chi le fa? I cacciari, le sottintese, che non arrivano mai alla conclusione. Perché non possono arrivarci, perché dovrebbero essere discussioni loro, che non fanno un caso. Punto. Allora, quello che voglio dire del biondo, di Piero, che c'è una cosa che qua il 90% della gente forse non ha letto. Sarebbe utile che avreste potuto avere quelle, che molti non sono d'accordo, per l'amor di Dio, il socialimperialismo, che è un documento che l'ha fatto 40 anni fa, che dice la storia di oggi, pensa a te. Cioè, se tu questo documento qua, che all'epoca lo fece sotto Controinformazione, una rivista dell'epoca, se leggessero questo documento capirebbero chi era Bassi, 40 anni fa, non oggi, è un contemporaneo, perché descriveva il sociale imperialismo dal suo punto di vista, poi si è preso d'accordo o meno, sia politico che economico. Questa qua è una grossa lacuna, che qua è difficile trovare quel documento, io ho capito, però si capirebbe meglio che era questo il biondo. Tutto qua. Il resto, scusa se ti ho detto, perché a me non dire una compagna, mi sembra una cosa, perché è una compagna, cioè, che poi tu sei d'accordo sulle sue scelte o meno, questo è un discorso che non, per l'amor di Dio, mica tutti vogliamo fare gli eroi, per l'amor di Dio. Però, cioè, era una compagna. Allora, fra compagni, c'è una compagna, documento. Due cose da dire, però no, se c'è qualcuno. Vabbè, mentre ci pensate, dico due cose io. Allora, mi pare numero uno, accenno delle cose dette. Vale questo riporto alla materia e alla storia e alla pratica, che in diverso modo hanno fatto Gino e Ada. Mi spiace enormemente di questo scambio loro, ma non mi interessa, se non cose si vedranno. Ma la questione è, diciamo che allora il coraggio e la forza è stato pensare di coniugare la teoria e la prassi. Il libro non a caso, sì, l'hai detta. Io ho citato. È stata un'esperienza che ha portato, che è vissuta attraverso il coniugio della teoria e della prassi, che ha messo in comunicazione e scambio pratico materiale il pensiero e l'analisi sul presente e l'azione sul presente, fino ai livelli più estremi. Questa cosa va detta, perché altrimenti confondiamo e caschiamo in una retorica che è quello che la modernità ci vuole in qualche modo far pensare, passare e raccontare. Questo io credo che è un segno distintivo fortissimo che va fatto su allora. su questa esperienza. Per questo ho detto prima che nella misura del possibile noi cerchiamo di conservare ed utilizzare e distribuire, far conoscere questi materiali a chi oggi c'è e fa delle cose, considerando il fatto però che il tempo è molto cambiato, perché non è solo il Vietnam, le fabbriche erano in movimento, il mondo era in movimento allora, oggi è molto diverso, per cui per uno ragazzo o meno ragazzo che fa politica oggi, il contesto generale è molto più difficile. Però ci sono, va bene? E quindi qua volentieri, quando ci possono passare, li passano. Voglio anche dare una indicazione. Tu parlavi di Macacaro, il fondo, l'istituto di biometria dove c'erano tutti i materiali di Macacaro è stato chiuso qualche mese fa, la biblioteca è stata smantellata, fortunosamente ci hanno chiamato e abbiamo salvato un pugno di scatole che abbiamo portato con una macchinetta piccola che sono qua, quindi faremo un fondino Macacaro, perché così non si può dire, però la Milano oggi fa così, c'era bisogno di spazio per fare delle cose diverse. Punti Rossi, si è detto, chi parlava dei Punti Rossi tu, Punti Rossi non era solo una rete di librerie, Punti Rossi era un luogo di distribuzione editoriale, perché non bisogna pensare solo ai punti, ma al collegamento tra questi punti. E quindi questa è un'altra cosa che oggi è debolissima e su cui invece varrebbe la pena di pensare e di intervenire. Dico su tutto, loro dicevano che abbiamo avuto dei problemi col grigio, dico, cioè vado proprio a ruota libera per non parlare poi più. Li abbiamo dei problemi con la messa in linea del materiale grigio. Atteniamo a mantenere dei criteri che ci piacciono sull'uso dell'informatica. Non vogliamo cascare nel social facile, non vogliamo cadere, e quindi facciamo fatica delle volte. Non è detto che tutto riesca subito, è tutto il quanto possibile da noi prodotto, gestito e controllato. Questo luogo è stato occupato nel 1975, è ancora occupato, non ha nessun titolo, noi non abbiamo nessun titolo per stare qua, è stato sgomberato l'ultima volta nel 2009 con una dispiego di forze di polizia enorme che ha circondato questo posto per una settimana e 10 giorni, ci voleva la carta d'identità per quelli che abitavano qua vicino per entrare. Siamo rientrati e da allora siamo qua, quindi lo statuto di questo posto è questo, sappiatelo perché potremmo averne bisogno. Questo è lo statuto del luogo dove questi materiali sono conservati. Non abbiamo mai avuto nessuna forma di finanziamento pubblico. Adesso abbiamo fatto una richiesta di tutela dei materiali da parte dei beni archivistici della regione, l'abbiamo fatta 10 anni fa e la pratica si è bloccata subito, cioè non è mai andata avanti, ultimamente è partita però si è fermata di nuovo, ve lo dico a titolo informativo. Abbiamo fatto adesso un bando per la prima volta nella nostra storia e vedremo nei prossimi giorni come va a finire, per catalogare parte di questo materiale grigio di primo, diciamo la categoria materiale grigio di quelli di primo che abbiamo su, che sono 60 scatoloni che facciamo fatica a gestire. Siamo pochi e facciamo fatica, però se voi avete dei materiali, delle testimonianze, delle cose, magari non delle biblioteche, perché quelle ci occupano uno spazio che non sappiamo poi, abbiamo un altro posto dove tenere anche i materiali, ma ci vuole poi tempo e modi per lavorare, ma se avete delle testimonianze e delle cose e siete d'accordo, fatecele avere e cercheremo di farne la conservazione migliore possibile. Io credo, prima che tu mi interrompa di nuovo, benché io sono d'accordo con quello che tu vuoi dire, è che il livello di ragionamento che tu proponi lo si... No, No, siamo all'assemblea, si fa con l'intervista, e questo sarebbe un'altra cosa che in parte abbiamo fatto, che come potete immaginare richiede anche lì tempo, pazienza e poi la conservazione e la lavorazione della stessa, la faremo e la facciamo. Il primo candidato è lui. Al compagno biondo gli sarebbe rizzato i capelli che aveva poco, sì, perché ormai era calvo, cioè che sentire in un convegno di compagni dire la Mara è una cosa che veramente si rizzava i capelli. No, no, è una polemica. Non è una polemica. Ogni compagno che ci ha rimesso la vita o 30 anni di galera, cioè, tiene alla sua cosa politica, ci tiene molto. Cioè, questo, ma se no, no non ha senso. Cioè, non è una polemica, è un dato di fatto. Ma non è solo per la signora. La signora come qua, la signorina che è, ce ne sono tante. Scusate. Che gli fa un po' schifo dire compagno, non lo so. È una cosa disiceva. Lo so, è polemica. È polemico, ho capito. Allora, no, la polemica ci vuole. Posso dire una cosa? Mi consentite di dire una cosa? Grazie. Ah, Tiziana, devo allora parlare. Cosa vuoi dire? Sì, posso dire una cosa? Io dico una cosa. Non ho... Allora, scusate. Allora, ripeto il discorso che abbiamo detto prima. Ok? In questo spazio, chiunque ha il diritto di dire ciò che ritiene più opportuno. Io di recente ho sentito su un paio di iniziative contro la guerra, eccetera, delle cose molto interessanti e degli interventi su cui avevo qualcosa da ridire. Faccio una battuta: non ho mai detto il compagno Piero oggi, ok? E non è perché lo consideri meno compagno della compagna Mara o del compagno Gino o della compagna Ada, ok? Volevo chiarirlo, lo vorrei chiarire anche a Gino, intendo dire. Se hai una frequentazione umana con le persone, a volte non ti viene da dire compagno, ok? Se mi consentite, io farei un'ultima battuta, perché ecco, fino adesso mi ha parlato dei libri, del fondo di Piero. Piero Bassi non ha mai scritto nulla ufficialmente sulle Brigate Rosse, di cui era un militante, ecco, una cosa che nessuno aveva detto. Piero era un militante delle Brigate Rosse e negli ultimi un fondatore delle Brigate Rosse e uno, come dire, l'ultima sua, come dire, autoaffermazione era: io sono un membro delle Brigate Rosse, partito comunista combattente, non semplicemente, come dire, in un dibattito che si era aperto tra i compagni fuori e dentro le carceri, lui aveva detto: io sono un membro del Partito Comunista Combattente. Firmò un famoso documento con altri compagni delle BRPCC all'inizio degli anni Ottanta, scusatemi. Non ha mai lasciato la sua visione delle BR, perché lui riteneva che un'organizzazione che era stata militarmente sconfitta non fosse in grado di trarre un bilancio, okay? Come l'aveva fatto il partito bolscevico, come l'aveva fatto il partito maoista, eccetera, eccetera. Ci fu un'unica occasione in cui Piero parlò esplicitamente, perché poi Piero ha scritto diversi testi, alcuni di quelli sono conservati in un libro che oggi alcuni di voi hanno in mano, sui temi della dissociazione, sul ruolo della lotta armata, della guerriglia, del materialismo, la qualunque, ma una sola volta parlò esplicitamente come militante delle BR sulla storia delle BR. Lo fece a Zurigo, in questo convegno di cui abbiamo parlato poco fa, e lo fece per una sola ragione, perché altri militanti della guerriglia erano lì presenti, e quindi era un dibattito tra compagni che cercavano di capire per quale cazzo di motivo avessimo, come si è detto, interpretato un'epoca in cui tutti erano convinti che il mondo, cavoli, lo stavamo per cambiare a calci nel culo, e improvvisamente, a calci nel culo in Germania, a calci nel culo in Africa, a calci nel culo in Francia, in Italia, in Irlanda, negli Stati Uniti c'era una guerriglia, e come mai in realtà fossimo finiti come eravamo finiti. Ora, dato che era un momento di dibattito all'interno di altri militanti rivoluzionari, compagni della RAFCO, come dicevo prima, compagni di Azione Diretta e svizzeri, Piero disse la sua visione, che forse probabilmente come dire, darebbe conto anche del dibattito di oggi. Quella era la sua visione del perché a un certo punto si era trattato di smettere di limitarsi a leggere i libri, mai ha rinnegato di leggere i libri, Cioè, il problema non era che si leggessero i libri, è che si continuasse semplicemente a rimanere a leggere i libri. Non aveva mai contestato la necessità di dibattere, Piero dibatteva su qualunque argomento, compreso il calcio, mi ricordo che era un interista in sonno, lui si definiva, no? Però il concetto era prima dibatti, prima leggi, poi studi, poi inevitabilmente a un certo punto devi prendere la decisione di portare in atto gli argomenti, le discussioni che stai facendo. E lui dice, lo vedrete tra poco, uno dei passaggi fondamentali è: a un certo punto ci eravamo stufati dell'ennesima discussione. Un gruppo di compagni deciso che era il momento di passare all'azione, giusto, sbagliato, poi come dire, chi l'ha conosciuto da vicino sa che aveva le sue riserve anche su quell'esperienza, aveva le sue critiche anche in confronto di quell'esperienza, anche di alcuni, come dire, evoluzioni di quell'esperienza, però disse: al di là di ogni dibattito e al di là di ogni discussione c'era un gruppo di compagni che decise di passare all'azione, punto. Quindi, se siete d'accordo, io farei vedere in maniera con cui parla lui, che chiude qualunque altra argomentazione. Bravo. Nicola deve mandarlo, ma io non so. Vogliamo spegnere forse per... aspetta, il bar. Io intervento sarà più breve di quelli precedenti, in parte per ragioni che non dipendono dalla mia volontà, cioè la mia autonomia di fiato, soprattutto arrivati a quest'ora, è piuttosto scarsa. La seconda perché in realtà le cose che intendo dire sono abbastanza brevi. Cioè io non darò nessuna testimonianza personale. In questo esprimerò semplicemente delle valutazioni personali sull'esperienza storica, in parte perché testimonianze personali sulla vicenda delle Brigate Rosse ne sono state già offerte più che a sufficienza, in parte perché comunque dovrebbe essere risaputo che il ruolo che esercitano gli individui nella storia è assolutamente irrilevante rispetto al fatto che ciascun singolo individuo possa aver contribuito, possa contribuire a determinare. L'ultima precisazione era che le mie valutazioni sono riferite esclusivamente all'esperienza delle Brigate Rosse, quindi non riguardano altri tipi di esperienze che sono state concomitanti con quella delle Brigate Rosse e che in parte hanno contribuito anche a determinarne la fisionomia. Per venire all'argomento della serata, il problema, comunemente il problema della legittimazione della nascita di quella che viene chiamata lotta armata in Italia, e poi dirò in che senso, dal mio punto di vista, è improprio l'uso del termine lotta armata, viene ricondotta all'esistenza di particolari condizioni e caratteristiche del movimento che i movimenti di massa avevano assunto alla metà, agli inizi degli anni 70. Dal mio punto di vista questo tipo di interpretazione incorre in un limite abbastanza evidente. Ecco, ovviamente rispetto a questo tipo di ricostruzione la lotta armata sarebbe nata per dare espressione di potere o nel senso di per consentire ai movimenti di massa di compiere il passaggio dalla lotta rivendicativa alla lotta per la conquista del potere politico da attuarsi tramite l'abbattimento dello Stato borghese, oppure nell'altro senso di creare situazioni di contropotere armato perdurando ed essendo ancora dominanti i rapporti di produzione capitalistici. Questo tipo di interpretazione secondo me esprime un limite di fondo, che è quello di non rendere conto di non dar conto, di non spiegare l'originalità storica di quella che io non chiamo lotta armata, ma chiamo, come d'altronde è stata chiamata anche in altre situazioni storiche e in parte è stata chiamata anche dalle stesse Brigate Rosse, chiamo guerra di urbani. Come la distinzione non è puramente di tipo formale. Parlare di lotta armata significa parlare di una serie, sostanzialmente di una forma di lotta, quindi di una tattica che in determinate fasi di un processo rivoluzionario, l'organizzazione di avanguardia in rapporto con le masse esercita. La guerriglia urbana invece è un progetto strategico, in particolare è un progetto strategico che, come dirò successivamente, si legittima, nel senso che nasce in un determinato periodo storico e non in un periodo storico diverso, nasce all'inizio degli anni 70, non nasce alla fine degli anni 50 per particolari condizioni, per particolari caratteristiche, che sono poi le stesse condizioni, le stesse caratteristiche che ne determinano l'originalità e la specificità. Parlare quindi, collocare quindi la nascita della lotta armata all'inizio degli anni 70, attribuendo all'esistenza di un movimento antagonista che avrebbe espresso la violenza di massa come forma di lotta, se non principale, comunque senz'altro nuova rispetto ad epoche precedenti, se da una parte, come dicevo prima, finisce per ridurre di fatto la guerriglia urbana a una semplice forma di lotta, dall'altra parte incorre anche in un altro rischio, nel senso che, e qui ricorro a delle citazioni, quindi è come si dice tecnicamente, a un supporto cartaceo, semplicemente perché ho le citazioni che è opportuno leggere integralmente anziché citare. Per Lenin e più in generale per il marxismo della Terza Internazionale, ciò che legittima la lotta armata sotto forma di azioni partigiane è il suo legame con la situazione insurrezionale. Evidente il limite in cui incorrono le ricostruzioni che fanno risalire la comparsa della lotta armata alla guerriglia urbana all'esistenza di un movimento di massa con queste particolari caratteristiche. Si tratterebbe cioè di dimostrare che all'inizio degli anni 70 esistesse, mi riferisco all'esperienza delle Brigate Rosse, in Italia una situazione di tipo insurrezionale o comunque una situazione di tipo pre-insurrezionale. Non esiste nessuna delle condizioni classiche stabilite, semplicemente perché il fiato mi sorregge fino adesso, poi... semplicemente nell'elenco delle condizioni stabilite da Lenin per cui è possibile valutare una situazione come il pre-insurrezionale, nessuna di queste condizioni si dava all'inizio degli anni 70. In assenza da una parte di una situazione insurrezionale, dall'altra parte di un'organizzazione rivoluzionaria, quella che i marxisti comunisti ortodossi chiamano un partito, che ne assume la direzione. Questo tipo di ricostruzione non riesce a spiegare come un'organizzazione nata semplicemente per massificare oppure per potenziare una serie di comportamenti già praticati spontaneamente dalle masse abbia potuto rendere possibile uno dei fenomeni politici più rilevanti del secondo dopoguerra. Vi ricordo brevemente la fine della Democrazia Cristiana come partito regime, ovviamente per chi non conosce la situazione italiana, la Democrazia Cristiana è un partito che ha gestito per oltre 50 anni in collaborazione con il Partito Comunista il potere, la stessa trasformazione del Partito Comunista che da una parte viene fatta dipendere alle modificazioni che sono avvenute a livello internazionale, il crollo del socialismo, l'Unione Sovietica e negli altri paesi dell'est, ma che altrettanto legittimamente possono essere ricondotti alla sconfitta del progetto politico, quel progetto politico che va sotto il nome di compromesso storico, che aveva nella Democrazia Cristiana di Aldo Moro e nella figura di Aldo Moro la sua figura portante e soprattutto il dirigente politico interno alla borghesia in grado di garantirne l'attuazione. Ecco, in realtà, dal mio punto di vista, la guerriglia urbana nasce all'inizio degli anni 70, quindi in questo senso si legittima dal punto di vista storico, perché all'inizio degli anni 70 giungono a maturazione una serie di esperienze a livello internazionale. Le fondamentali sono l'esito disastroso dell'esperienza riformista di Unità Popolare in Cile, la lotta del popolo vietnamita che dimostra armi alla mano che è possibile affrontare l'imperialismo ed è possibile sconfiggerlo, l'esistenza di altre guerriglie nel frattempo nell'area del Mediterraneo, ad esempio in quella palestinese, e soprattutto la comparsa delle guerriglie nel Sud America. Allora ricorro per l'ennesima volta al supporto cartaceo, nel senso che ci sono citazioni da testi. Un ulteriore inciso, la mia testimonianza personale non è particolarmente richiesta, perché chi volesse farsi un'idea sulle posizioni politiche e comunque sulle discriminanti che stanno alla base delle nostre Brigate Rosse non deve fare nient'altro che andarsi a leggere i testi che per nostra fortuna sono pubblicati e che non hanno bisogno né di ripetitori né di nuovi interpreti, così come se uno vuole leggersi i fondamenti del marxismo si va a leggere i testi di Marx ed Engels e non organizza sedute spiritiche semplicemente perché ha bisogno di parlare personalmente con lo spirito di Marx. Ecco, in realtà alla fine degli anni 60 i componenti del nucleo originario della guerriglia urbana, che avevano esaurito pressoché tutte le esperienze della sinistra storica, sia parlamentare che extraparlamentare, decidono, in virtù di una semplice scelta soggettiva, che in questo senso non ha bisogno di nessuna legittimità storica diversa dal fatto che, come diceva da una parte Che Guevara, doveva rivoluzionare e fare la rivoluzione, dall'altra parte qualunque atto che presupponga una rottura con esperienze storiche precedenti è un atto soggettivo che viene compiuto del tutto liberamente da condizionamenti di tipo sociale o di altro tipo puramente contingente. Decido di porre un problema fondamentale, il problema dell'aspetto militare della rivoluzione nei paesi a capitalismo avanzato, che significa poi di fatto porre il problema della rivoluzione nei paesi a capitalismo avanzato, perché è agli inizi degli anni 70 che si esaurisce il ciclo storico delle esperienze rivoluzionarie avvenute sotto l'esito della Terza Internazionale a livello mondiale. In questo senso allora la scelta della guerriglia urbana è la scelta di, sulla base delle esperienze rivoluzionarie che erano nel frattempo maturate a livello internazionale, di sperimentare una tappa successiva, cioè di sviluppare creativamente le esperienze rivoluzionarie precedenti e di affermare un tipo di esperienza nuova. In questo senso si tratta, come tutte le esperienze rivoluzionarie, di un tipo di sperimentazione che aveva determinate e precise caratteristiche. Quindi è all'inizio degli anni 70 che un gruppo di compagni decide di porre concretamente, uscendo dalle sacche delle discussioni che erano avvenute fino a quel momento all'interno dei gruppi della sinistra extraparlamentare o a livello del dibattito all'interno della sinistra, il problema della rivoluzione delle metropoli imperialiste come atto concreto, come una decisione che ha una sua immediata applicazione nella pratica. Sotto questo profilo è illuminante una citazione dei compagni della RAF, la leggo testualmente. La RAF e la guerriglia urbana sono il gruppo e la prassi che, tracciando una letta linea di divisione tra sé e il nemico, lo combattono nel modo più acuto. Ciò presuppone identità politica, ciò presuppone che sia stata compiuta un'esperienza complessiva. Sottolineo l'affermazione un'esperienza complessiva. Essendo la guerriglia urbana la forma più alta raggiunta storicamente alle esperienze rivoluzionarie nelle metropoli dell'imperialismo, i militanti che decidono di intraprendere la guerriglia urbana hanno alle loro spalle, sintetizzate nella loro vita politica personale, però sintetizzate come esperienze storiche precedenti, tutte le esperienze classiche e tradizionali del movimento comunista internazionale. Allora all'origine dell'estero della guerriglia urbana ci stanno compagni che sono usciti dall'esperienza del partito comunista, sono usciti dall'esperienza altrettanto fallimentari, nel senso che comunque non davano soluzione al problema della rivoluzione nelle metropoli dell'imperialismo del terreno dei gruppi extraparlamentari o di alcuni gruppi minoritari sorti nel frattempo. Ecco, è nel contesto che dicevo prima, un contesto internazionale caratterizzato dalle comparse della guerriglia, dalla lotta del popolo vietnamita, che è una lotta sostenuta e vinta con le armi in pugno, non con l'arma della scheda elettorale o con l'arma dei libretti rossi di Mao agitati dai resistenzialisti italiani, me compreso, per un certo periodo. Questa notazione serve solamente come notazione di cronaca, che non ha, ripeto, nessunissima importanza. C'è una serie di avvenimenti interni, la strage di Piazza Fontana, che dimostra che comunque le condizioni della lotta di classe sono sempre poste dal nemico, non sono poste all'interno della strategia classica di tipo insurrezionale, non sono poste dal proletariato. Quando il nemico decide di compiere un'operazione provocatoria come quella di Piazza Fontana e poi di spostare completamente l'asse politico sia dell'agitazione, sia della propaganda, sia della crescita dei militanti rivoluzionari, a quel punto la contraddizione è posta al suo punto, al suo livello più alto. O le forze rivoluzionarie riescono a dare risposte anche al problema, alla questione militare, che la rivoluzione non è però all'imperialismo, facendola finita, come nel caso specifico dell'Italia, o sull'illusione che potessero venire i carri armati russi a liberarlo, o dall'altra parte che esistessero chissà quali riserve di armi da parte degli ex partigiani, armi imboscate all'epoca della resistenza. In questo contesto, e quelle che leggo sono citazioni successive tratte da documenti delle Brigate Rosse dell'epoca, può prendere corpo concreto la critica del mito della presa del potere per via insurrezionale, dell'ipotesi classica dell'insurrezione centrata prevalentemente sulle masse urbane, preparate per lunghissimi anni da un infaticabile lavoro di propaganda e di agitazione, che poi rapidamente deciso da un punto di vista militare. D'altro canto, l'unificazione del mondo da parte del capitale imperialistico attraverso il suo progetto di controrivoluzione armata, il progetto di controrivoluzione armata è una citazione, non solo rende la prospettiva strategica e insurrezionale ormai inadeguata, è sempre una citazione, ma arriva a proporre, inizia nuovamente la citazione, la guerriglia come forma dominante, egemone della lotta di classe nel mondo. Il capitale imperialistico, nella misura in cui ha mondializzato il proprio dominio, toccando i limiti estremi della sua possibilità espansiva, non voglio che aprire una polemica sulle ultime tesi della mondializzazione come presunta novità nel modo di funzionamento storico del modo di produzione capitalistico. Toccando il limite estremo, ha infatti posto le condizioni necessarie all'unità strategica del proletariato internazionale. Un'unità che trova i suoi riferimenti pratici nella lotta di Tupamaros e nei nuovi fermenti rivoluzionari in Argentina, dove la lotta di classe si presenta a un livello di complessità non dissimile dall'Italia. La maggior parte delle citazioni che ho ricordato sono tratte da Sinistra Proletaria del settembre-ottobre 1970 oppure della Nuova Resistenza del maggio 71. Ecco, in questo contesto e a partire da questa scelta non è l'esistenza di particolari caratteristiche, di particolari movimenti di classe che legittima, intendendo il termine di legittimazione nel senso che dicevo prima, perché esiste poi un'altra interpretazione nel senso della legittimazione, esiste anche una legittimazione non soltanto politico-storico, ma anche una legittimazione di tipo morale. Ma questo è un altro tipo di discorso che potrebbe essere il fatto che comunque eventualmente mi servo di fare una discussione. Ecco, in questo contesto la guerriglia urbana si caratterizza come un processo rivoluzionario senza soggetto sociale, nel senso che il soggetto della guerriglia urbana sono i rivoluzionari, non solo perché, come diceva Marx, la classe operaio è rivoluzionario o non è, ma soprattutto Sopr- soprattutto perché la responsabilità storica che un numero ristretto di avanguardie si assume alla fine degli anni 60 è una responsabilità che le coinvolge e interessa le chiama in causa in quanto avanguardie. Esiste ovviamente un problema di rapporto con il movimento di massa, ma è un problema dal punto di vista militare semplicemente perché, come diciamo, se tu un militare non si possono muovere se non sono dentro l'acqua. Dall'altro lato perché comunque esiste un problema di legittimazione anche a livello sociale della violenza organizzata come nuova forma di lotta politica, come nuova forma rivoluzionaria, posta come problema fondamentale. Ecco, è in questo senso, è in questo contesto, ovviamente dal mio punto di vista, che per riprendere le parole che erano state usate da Ulrike Meinhof, un gruppo di compagni decise di agire, di svegliarsi dal letargo, di smetterla con il radicalismo verbale, con le riunioni, con le discussioni su una strategia che perdeva sempre più significato, un gruppo di compagni ha deciso di combattere. Quel tipo di esperienza è fallita perché le esperienze falliscono nella misura in cui sono state sconfitte dal punto di vista storico. Resta però, è sempre aperto e ancora irrisolto, il problema non solo il problema dell'aspetto militare della rivoluzione nei paesi dell'imperialismo, ma il problema della rivoluzione nei paesi imperialisti. Una volta, oltretutto per l'ennesima volta, dimostrato che le esperienze classiche insurrezionali sono impraticabili perché per nostra fortuna o per nostra sfortuna non ci sono più terze internazionali che destano le condizioni per la rivoluzione in ciascun paese del mondo.